bussando la Italia che la chiamando davanti. Comunque distorce, boh, lo sento che distorce dalle cuffie. Mi è arrivato un messaggio di ieri, questa tipa mi ha scritto che la stavo disturbando la TV, però non so se è qua, zona di casa, là, qua al monte, oppure giù, l'antenna. E beh, se non disturbo a casa, ho posto la blu, sì, perché è seduta il visore. Ma a casa niente, e pensare l'antenna vicino, da baracchino alla TV, vabbè che ho messo tutto nuovo. Riesci a vedere qua? A tre? No, non disturbo niente niente. Ma infatti, va, per carità, per carità, per carità. Speriamo che la gente capisca che non devo uscire. Io la verità sono dovuto scappare dalla 25. Perché mamma ha bisogno di me, perché è diabetica, capito? Niente, sono qua adesso. Ci vediamo domani, magari me ne sto qua. Ma posso stare a Nettorra, a Nettorra. E l'ho scritto. E me Gianni, ho più rullo. Lo senti, ma sto qua già. Ehi, aspetta. Station, station, my friend. Station, my friend. Italcom, Sardinia chiama. Station, my friend. My friend. Italcom, Sardinia chiama. Non ci sento. Attention Germany, Germany, attention Germany, Italy from Sardinia chiama. Forse resta andato, chi c'è voi? Ora mi guardo non conosco, non è nemmeno il tedesco. Gianni, dormito ieri? No, sono pure con la casa. Ehi, ahia, positivo è Cafarrotti, non ci sono problemi, capite a me, capisci a me? Tanto no, insomma, adesso mi sto rilassando, mi sono sdraiato a 5 minuti per rilassarmi. Ho fatto tutto, bagni, telecamera, io mi spopolato. Stava la maletta, era una cosa rara, perché già lo sai, prima non ce la facevo, adesso mi sto riprendendo un po', dai, e ce la faccio adesso. Ma con chi? Dove hai detto chi c'è l'uomo? Hola? Eugenio da Porto Torres, sei io già. Attenzione Eugenio da Porto Torres, mi dà un controllino grazie. Chiara che è? Ho capito, ma no, perché è attaccato da parito per vedere perché c'è differenza di mano tra uno e l'altro. Guarda loro, troppo bene ragazzi. Watch your three, four, five, six, seven. Ho abbassato la potenza della marina. Ma poi che io c'ho la potenza regolata, l'ho abbassata appena appena. Prima era con 10, adesso è con 4, 5, 4. Segnale, ha cambiato. E via. Si è apparecchio che ha da segnale sballata, secondo me. Non è giusto, ma non è possibile. E allora, momento, e mio già giusto. Ah, quell'apparecchio lì lo sai, no, che c'ha problemi, lo Smither. Perché non è possibile che da 54 a 104 sia per dare un lungo. No, ma così, sono tutti così, te l'ho detto anche mano. Da quando nascono sono così qui da Parigi, stanno segnali sballati. Prendese. Avanti, prendi. Ciao Giro, ciao Gianni, buonasera. Ciao Udonde, mi hai sentito la verità. Che si fa, che si fa? Niente, appoggiato alla radio. Adesso mi hanno avvisato che da domani fermiamo tutto, quindi da domani, quarantena. Ciao Massimilia. Ciao Lugaria. E a casa della mamma sono, dai. Positivo, 9. E tu lo stesso, dai. Eugenio, fa un passaggio un attimo. Poco fa era più alto, aspetta. Vabbè Eugenio, e che si dice? Tu non prendi il cazzo, deve stare in casa. Beh, c'è una chiamata, scusate la mia. Avanti chi chiama? Avanti su canale 10. Come ci senti malissimo? Sei tu che stai scendo male, se va. Male sto uscendo già. No, guarda che forse non c'è la terra attaccata il tipo, e sta uscendo. ricevo bene, come mi ricevete adesso, cazzo? A me sei 9:10. C'è per un pomeriggio, c'è per il pomeriggio la pelle. A me arrivi 9:10 un pomeriggio, mi ascolti? Ti conferma, come mi ricevete? Mamma mia. Io ti ascolto benissimo, gappa. Io non ascolto benissimo, ascolto 5. E la radio è basso. Perché vicino a me va a seguire, ha capito? Java, Java. Fallo parlare. Ciao, Luigi, va. Buonasera a tutti, Interrogativo, come mi sentite, capito? Oggi può passare un secondo del 45, voglio vedere se funziona ancora sta radio. Ah, ok, no. Ciao, benissimo. Sì, mi ha, devo fare una prova. Vale 45 un attimo, Lu. Luigi, vai, approfitta adesso a parlare, vai, così non ti parlano sopra. Sì, allora, interrogativo, come mi dicevi, capito? Sappiamo che cosa, la radio un po' passata, dai, prego. Però, già ti ascolto. Ma poco fa, che cosa vuoi combinare? Guarda, ascolta lo so dire, ho spento e mi ha acceso la radio. E allora sta partendo con la radio, perché uscivi malissimo, proprio passo. Penso che non fosse un punto. Propagazione, non c'è tra l'altro, non è possibile propagazione, non riesci a sapere. Ma l'unica cosa che ho fatto è che mi sono messo la cuffia, infatti mi sto ascoltando in cuffia, ma non credo che questo abbia potuto creare problemi, capito? No, cioè sei in strada con le cuffie e l'apparato portatile, confermi? Ti confermo, disposto per le cuffie esterne e per il microfono esterno, capito? Ma io pure ti vorrei fare una fotografia, guarda, vengo, quando posso ti faccio una fotografia. Sarebbe un onore per me, capito? Un DJ! Capo gamba. Oggi lo siamo mangiando un bel po', perché ci senti meglio in cuffia? Beh sì, sento meglio in cuffia, sento in tutte e due le orecchie, quindi sento molto meglio, capo. Capo gamba, ma è cuffia di quelle piccoline oppure quelle grandi che usano i jeans? No, guarda, sono quelle cuffie che si mettono al computer, ho procurato l'adattatore da stereo a mono e quindi sento benissimo adesso. Da... Quindi tu hai ascolti a una cuffia solo? No, negativi, tutte e due, perché ho messo l'adattatore che praticamente le cuffie stereo diventano mono, quindi li sento su tutte e due. Avanti se c'è qualche volato, se siete rientrati, esci, non sono tutti su 45 sono. Ma devi andare, meglio vai. Quindi lunedì abbiamo. Senti, questi qui sono di fuori. Attenzione, canale 10, si ascoltate l'isola santa che chiama, cambio. Perché non c'è una cupola come dietro. No. Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna in Italia fa chiamate se sintonite l'ascolto, ricola. A meno che non c'è una bufala come ieri. Si sente il rumore della propagazione, se tu te ne senti. Quando c'è propagazione si sente quel rumore di... Lo senti? Ma con me? Allora, con culo sto parlando, con te sto parlando. No, guarda, mi confronto le cuffie perché mi sono reso conto che sta consumando troppa batteria. Con le cuffie? Ma stai scherzando, le cuffie non le consumano mattina. Ma non lo so, ma il livello di batteria sta diminuendo, ora confronto di non consumo, però comunque evidentemente non sono cuffie adatte per questo apparato, vi ripeto, sono normali cuffie da cucina. Mi sembra strano, guarda. Ma se mi riesci? La sera che il detesto proprio mi sta. Cosa? La sera. fiducia perché l'ho prestata, l'ha prestata con l'amica che dice no, non l'ha chiesto perché mi piaceva per lavoro, sta lavorando alla casa con il computer mio. Oh, mi ragazzi, il lavoro che a casa se lo sta facendo. E poi a me me la metto direttamente nell'incanalo del conto, va. Sì, lo so, comunque guarda, metti che maggio, aprile, maggio e giugno sono praticamente di anticchio per i quattro giorni. Per quanto riguarda maggio, allora di sole inizia dalla 26, sì, lo so, ma io ho 40 almeno perché lo mettere nel conto direttamente, quando dicevo non vado a ritiro, solo che se mi scade anche la carta di credito non so come fare perché la casa non posso uscire, non per il coronavirus, ma ancora non sono in condizione di uscire e quindi non lo so, userò la carta di credito invece che il banco. No, è per fare la spesa, così vuol dire. Uso la carta, perché c'è la carta che va, non riprenderà il mese prossimo, va bene lo stesso. E tanto non posso mandare nessuno. Oppure quello che la faccio arrivare a casa. Buonasera a tutti. Con chi stai parlando? Dove senti? Ciao, buonasera a tutti ancora. Ciao Nicola, ben ascoltato. Ah, scusa Gioca, mi sembrava Nicola. Perché se passi lo di radio, mi sembrava Nicola. Ma cosa ne pensi? Ci decido di gara. Sì, da quel dì. Anch'io sono uscito di testa, adesso anche peggio. Mamma mia, io oggi mi sono messo in guida a tutto volume, non mi hanno fatto pensare a niente. Ah, le cagole di qui sono formidabili, a me piace lontano. È così. Oh Nicola, ti volevo dire che se continui a salire sul tetto, poi ti tocca chiedere il permesso di soggiorno, quando inizia il caldo diventi nero, nero, nero. È vero, comunque sto pensando di mettere sia draio che ombre voli, e la pena del caldo. Se davvero voglio l'antenna mi faccio meglio. Mettiti, ho un'antenna, anche un dipolette, vedi la differenza, amico. Ma non una cosina, una 580 devi prendere, la 220, di quelle tipo Turbo 2001, se non la puoi mettere sul tetto. Guarda, io ho sentito un amico che ha la Turbo 2001, esce fortissimo, beh, è proprio di lusso ed è fuori, non è a Sassa. Se tu decidi di metterla sul tetto te ne do altri consigli, se decidi di mettere quella di paramobile te ne do un'altra cosa. Quella che si portava è di paramobile, sono capito? Sì, quella lì sì, da tipo 2001 e una 58. 10 dalla macchina, insomma, è una bella antenna. Ma che invece le bambine boomerang che dovrebbe essere come tre mezzo potrebbe stare? Fa schifo. Con il solito vecchio senti, con lupo vigio. Va bene, dai, fate girare la cosa per il cibo, io faccio da te. Va bene, prendi il dai. Nicola e Giovanni sono io. Accordo, accordo. Buonasera a tutti signori, io sto cucinando, dai, sono entrato per un saluto. Ci sentiamo forse più tardi, se no un bacio e un abbraccio. Come Eugi? No, tortellini volgari, alla panna però, con la panna. Io sono onnivoro, tutto, basta che sia commestibile. Ciao Nico, dai, riprendete voi. Io tanto sono in cucina, non vi sento nemmeno. Ciao, a dopo. Il provo mi sta facendo pure no, bolliti, cioè cotti, scolati e poi la panna messa sopra. Panna da cucina. Ah, mamma mia, ma no, troppo pesante. Poi lo fa. Io la panna con la uva. Pesanti, sì, se sono pesanti quelli già. Ma tu devi vedere, io posso mangiare peperonata alle 5 di mattina e riesco a digerire tutto. Vai Nicola, ciao a tutti, ciao. Pure io lo mangio, posso mangiare anche di no. Mia bombolo, mi. Vabbè, non riprendete. Bombolo, Santiago 9, Radio 5. Ciao, sto facendo roba, ciao. Quasi 9:15. 9:15, Radio Kimmers. Campari che stai usando? Ma diciamo io non ho come il vino nelle portate del sia a terra. Dai, dove ti lancerà sul terrazzino, così non stai fuori, ti dare il freddo. Portatile già, portatile. E diciamo che lui non voleva avere problemi col condominio, se no si avrebbe messo l'antenna anche sul tetto, va bene. E a volte per arrivare a volte va sul tetto, va via presto. Io gli ho consigliato di metterci un attimo 2001 con la base magnetica, quando la notte la sera la mette e la notte la fa, così domani mattina nessuno vede nulla. Capisco perché anche io ho avuto problemi nel condominio e però mi sono fatto fare, gli ho presentato la legge, l'ho stampata, gliel'ho fatta vedere, dopo il condominio e si è cagliato tutto. Sì, sì, l'ho cambiata. Ho andato lo stesso, solo che è cambiato troppe volte il radiale, ancora ci devi fare andare in giro, l'ho messa sempre il radiale, ho messo la rimasta. Sì, sì, va bene, una bella antenna, anche lontanata sta va bene. E intanto il capo condominio vuole che mandi a tutti la lettera dicendo che ho cambiato l'antenna. Cioè non mando tutto, non me l'ho sentito. Io l'antenna ce l'avevo già, l'ho solo sostituita e basta, tutto lì. Dopo quando mio sono di quelli non preoccupati sempre, se no non li vogliono se non sono così, vero? Allora se tu sei proprietario, se sei proprietario di casa c'hai una parte tua sul tetto che ti spetta di diritto, se tutto ti fotti ci sono le leggi, e nella parte tua puoi fare ciò che ti pare, ci puoi mettere l'antenna di voi e quello che vuoi, tirarti, come ho fatto io, ho usato la parte mia, le altre parti non le ho usate, ho usato la mia invece tirarti, quello che posso brontolare perché ho messo tirarti magari che vanno anche dall'altra parte, ma non penso che diano fastidio perché sono alti, quindi non rompono le scatole, anche se devono rifare il terrazzo non rompono le scatole. Tutto quello che, dove, che tu potevi piazzare l'antenna, che sempre dire dovevi entrare in casa di altri perché c'era lì la botola, ma se eri sul tetto erano obbligati a farlo entrare, tutte queste cose qua. L'interessante è che l'antenna sia piazzata bene, che sia messa in sicurezza eccetera eccetera, poi per il resto puoi fare, non c'è nessun problema, guarda. Io non so cosa ho dovuto fare, a me il capocondominio vecchio, quello che c'era prima, mi ha fatto far mettere le firme da tutti i condomini che accettavano, e qualcuno ha messo l'asterisco, ha scritto sempre ammesso che non rechi disturbo perché sennò è tutto a carico di chi piazza l'antenna eccetera eccetera, e l'ho lasciati fare, l'ho lasciati dire, chi se ne frega, tanto io l'ho piazzata e non disturbava nessuno. Io la legge la conosco, addirittura è una legge del 1942 che si chiama diritto d'antenna. Questa era data anche dalle televisioni, la conosco bene, però poi se ci vediamo che la voglio. Ma se tu la conosci non applichi la legge, perché la conosco. Io ce l'ho stampata, me lo sono stampata questo qua. Ma non so che dire, ma non devi essere succube degli altri, tu devi fare le cose che credi, poi gli altri possono fare quello che vuoi, non tanto che se si mettono a boccata o roba del genere, la fermo perché c'è una legge, capito? cambia poco. Sarà che se ti dice se chiama. scorso mi hanno operato la gamba e sono convalescente, diciamo, a casa. Piano piano sto cominciando a camminare, prima con le stampelle qui sei, adesso piano piano mi sto riattivando. Ci aspettavo la fisioterapista a fare la fisioterapia, è passato un mese, ancora non si sono visti, dovevo venire a casa a fare la fisioterapia, non ci sono visto. Meno male che ho fatto io la ginnastica, se no mi faccio proprio l'arca di legno. No, non posso caricare, a parte che non c'è solo quello, là, c'è anche un ulcera sotto la pianta del piede, l'ulcera diabetica, che ce l'ho già 5 anni. Purtroppo quella non si riesce a debellare. Posso stare in piedi, ce l'ho che brucia il piede, insomma non ce la faccio più a non lavorare, l'ho già dato, ho lavorato per 38 anni, già va bene. Oh, comunque siamo rientrati, tanto, e beh, ci sei Massimiliano e Meritto? Sempre di prepotenza, entra, boh, sì, questo è Luca Pocchioni, vai, con Pomane, vai, Rosolito. Non vedi che quello Capuzione è un po' uomane? Cos'è Antu? Non ho capito. Però sto modulando. A casa della mamma sono adesso. Sì. Ciao a tutti, buonasera. Nataloide. Dai tu, vai, abusivo. Pirata. Stava cocotto, che brava da quest'ora, poi io non lo so, si dà capo di tutti. No, è colazione già. Abusivo e pirata. Parli adesso? Non parli? Sì, devo tenere d'occhio la roba che bolle, dai. E tu, Natalino, novità? Novità che non ti rintracciavo più di là. Non sto aprendo l'applicazione, Natali, perché mi stanno tempestando i messaggi su WhatsApp. Gente che non esce più di casa e giustamente deve passare il tempo. Vai Gianni, riprendi, dai, che sono sempre all'ascolto. Io stamattina non ho preso manco il telefono in mano, anche se no se io qui devo rispondere a 100 persone. Ma mi la posso dire, devo mandare buongiorno, questo e quell'altro. Oggi non ne avevo voglia, ma mi ho preso in mano. Se no dovevo fare roba a casa, se no combinavo. Stessa cosa già, se dovessi stare a prendere messaggi WhatsApp lì, non riuscivo a combinare nulla. E invece sono riuscito a pulire tutta la casa, me l'ho fatta linda e calenta, visto ci sto già riuscendo. Sì, sto bene, ma con la quinta superiore, quest'anno si diploma, ma quella si è laureata, già stanno bene, grazie a Dio. Solo che a Bologna io sono un po' così, perché sta lavorando pure a Bologna e quella donna lì che il coronavirus è micidiale con la donna. E l'ho sentita ieri, mi ha detto che per il momento la gente stava tutto bene, però lei lavora in una comunità, fare un cartaccio in una comunità e ha contatto con tanta gente, capito? Dice che non gli hanno fornito manco mascherine né tutto. Se l'ha portata da casa, se l'avremo a casa la mascherina, se no non avrebbe avuto. È un casino, capito? Quando si ha contatto con molta gente, devi per forza avere. Speriamo che passi questa situazione, perché se no facciamo tutti i rabbini di Gesù. periodo cerca di ubbidire il capo, ti metti a mangiarti anche fuori. Sì, è così, comunque sembrerebbe che lo smog si stia aumentando. Si stia diminuendo. E cos'è tutto questo? Beh, lo smog sta diminuendo perché non ci sono le macchine, è un grido. Se tu la metti bassa rende poco e niente, se tu avessi modalità di metterla sul tetto per installazioni temporanee, molto temporanee, allora renderebbe già di più. Poi il bello è che non aveva stazionarie la mia, io gli ho messo il cavo come diceva il manuale di una certa lunghezza e stazionarie non ne aveva. Non so, non lo spara niente, non mi piace però. Che ha attaccato il lineare l'ha fatta crepare, proprio la crepa. Beh, non è la prima vedere tua cosa quella lì. Vabbè, quindi la prima è basso, non è che avrei fatto la stessa. È troppo caricata già. Ma scusa, la tua cosa perché non può. Perché hanno fatto il tetto. siccome dovete popolare, per il caso di se dovete popolare, se fanno loro se lo devono pagare. Ci sia qualche donato, comunque buonasera a tutti e due. Avanti Nicola e poi Pedro Gianni. Sì, buonasera, lo penso prego. Ehi, allora, c'è anche la Natalino, c'era Eugenio, è sparito, non sta più rispondendo. Vamo a vedere un attimino se sono su 45, e io. Nicola, quindi cosa c'è? Sempre sul terrazzo, quindi? Questo è la terrazza di Batano. Ma da quello che non ho capito, tu sei nel terrazzino dell'appartamento tuo o nel terrazzo dell'ultimo piano? Nel terrazzo condominiale. L'ultimo piano, diciamo, il suolo dell'ultimo piano. Columbia. Dove nel regolamento c'è scritto addirittura che possiamo spendere Natale dobbiamo stare attenti, camminando troppo se c'è le cose, la copertura impermeabilizzata che non si rovini, come hai fatto di lì? Col cartone catremato? Ma guai una rotoli? No, negativo, ci sono le mattonette. Oh, pochissimo. Ho un'idea. Puoi mettere il tipo che dici che è il filo da stendere. Diciamo, ma una domanda, tu di quanti piani è questo palazzo? 5 piani. Quindi tu sei all'ultimo piano, al primo piano in questo momento, così? No, negativo, io sono nel terrazzo, sotto il quinto piano, nel terrazzo condominiale perché io abito al secondo piano e sono circondato da palazzi, proprio non si vede nulla, però forse con te riesco a parlare, ma vieni se mi chiamo, ti ascolto perfettamente, se 9 più 10 con i picchi positivi arrivi anche qualcosina di più, no, il segnale tuo è forte qua, molto più forte di tanti, a parte Gianni, vabbè Gianni arriva a 9 più 20, no, quello che voglio capire, se tu ti devi montare, installare un'antenna, dove la vorresti mettere, nel terrazzo condominiale o quello il terrazzino di tuo personale di casa tua? Io sono orientato nel terrazzo di casa mia, però vorrei fare una cosa ma a quel punto esiste, io almeno quando scendevo giù al mare avevo messo la mini Grand Plain piccolina, cioè radialini piccoli, sono da fare 75 cm, una cosa del genere, meno di un metro sono, è molto più, no, forse anche meno, diciamo una cinquantina di centimetri, sono quattro radialini della LEM, è un'antenna discreta, dai, non c'era da pretendere grandi cose, però va più che bene, io all'inizio andavo con quella, dopodiché al mare avevo fatto la canna da pesca con i radiali, avevo preso una canna da pesca accordata a un quarto d'onda, era con i radiali da 2,75 m, ti posso dire era una bomba, molto molto meglio della Grand Plain, della mini Grand Plain. I cavi li butti giù, li tiri in terra, senza tanto riceve come piano di massa, quello lì, una canna da pesca telescopica, la allunghi, quando non ti fa niente, la prendi e la abbassi. Naturalmente non è la stessa cosa dell'apertura, cioè avere un solaio, un tetto completamente libero da ostacoli, comunque funziona comunque, non ti preoccupare, avrai un grande guadagno sicuramente. Tu adesso stai utilizzando l'antennina in gomma del portatile, o sbaglio? Sì, però io la questione quando l'ho comprato avevo l'antennino da 20 cm, che quello praticamente non c'è fa niente. Ho comprato da sempre da una lungimante per questo apparato, figurati, se riesci ad arrivare 9 più 5 con qualcosa, 9,10, 9 più 5, 9,10, se con quell'antennino, figurati se piazzi un'antenna più performante, cioè sicuramente avrai un guadagno enorme di cosa, sia in ricezione che in trasmissione soprattutto. No, guarda, secondo me ti metti un'antennina, così non stai neanche a perdere tempo, vai a fusare, prendi la LEM piccolina, la mini Grand Plain si chiama, ma sono anche GBC ce l'ha, è un'antenna con i radiali in coso, in fibra di vetro, piccolina, non è come le Grand Plain, pochissimo spazio, ti oppa, li metti, tirano già la flangia da avvitare sotto, perché nella base dove ci sono il piantone, diciamo, dove attacchi i radialini che sono inseriti a filettati, a barre filettate, se c'è già un innesto avvitatura, lo attacchi nel poggiolo, nella ringhiera del poggiolo, e vai alla grande, e migliorare tantissimo. Ma non avete calcolato un'altra cosa? Se lui è chiuso tra i palazzi, questo maledetto, allora prenderò sopra a Natalino, ciao Natalia, e non ho capito tutto l'inizio del discorso, ho sentito soltanto che prenderà una decisione, però non ho capito. Se c'è possibilità di metterla nel tetto, basta anche uno di quei paletti leggeri telescopici di antenne TV a Vuglia, ti attacchi con una frangia a forare o ti leghi a qualcosa, dai. E nel tetto è molto più semplice, solo devi portarti giù un cavo esterno in facciata, non so se te lo permettono. E questo è il problema. Prova come ti dico io, senza spendere niente, a parte il costo dell'antenna, te la metti nel terrazzino, provi, e diciamo dovresti migliorare tantissimo. Certo, non ci sarà un'irradiazione completa come potrebbe essere all'ultimo piano, si libera di ostacoli. Comunque ti ripeto, io lo utilizzavo giù al mare, ero in mezzo a tutte le casette in giro e riuscivo a parlare con Sassari, con un baracchinetto da niente, con un ANA 48 parlavo con Sassari, non arrivavo forte, però mi ascoltavano quasi tutti, ti ricordi già Natalino? Sì, ma è un attimo 2001, non mi sento radiati, che radiati danno fastidio. Turbo 2001, ma la Turbo 2001 costa anche un po' di soldini rispetto alla Grand Prix che costa 30 euro. Che se li turba le televisioni poi gli rendono la vita difficile. Chi era che tra l'altro che stava parlando? Ma di chi era? In tre anni io ho detto che fa TVI. Avete dimenticato che può fare TVI, gli rendono la vita difficile dopo nel terrazzo. Vuole sul tetto l'antenna, è più alta delle antenne TV. Ma se vuoi lo fai se c'è un apparato sanato, tirato troppo di collo, se c'è un apparato omologato con 4 watt non disturbi niente, assolutamente, te lo garantisco Natali. Anche attaccato l'accoso, ma anche quello non c'è l'antenna col cavo in perdita e con l'amplificatore, solo così puoi fare TVI, se no è matematicamente impossibile. Ascolta, io disturbo con 4 watt, con l'apparecchio omologato e disturbo. Ragazzi, vuole sopra le antenne TV, perché è sul terrazzo, può fare TVI. Vuole sul tetto più in alto delle antenne TV. Vuole almeno un quarto d'onda, per non disturbare. Ce l'avevo sul terrazzo, non disturbava nessuno. Io quando sono rientrato, dopo 10 anni che non entravo più, quando sono rientrato ho messo un'antenna sulla ringhiera, che non può confermare Claudia, e non ho mai disturbato nessuno, e ho tutto attaccato. Si hanno poco a poco le antenne in perdita, gli entri dentro, sparato. Non ti preoccupare. Io ne ho un paio qua che li disturbo, li brucio, però me ne posso perché adesso ho l'apparecchio omologato e mi hanno detto che posso parlare. Se loro vogliono vedere la TV si devono cambiare l'antenna. Natali, una cosa, allora, il problema del disturbo TV è che tra l'altro è un'altra cosa, adesso sono digitali, non è prima come l'analogico che ti fa le righe, ti faceva dei difetti, adesso o prende o non prende il segnale, perché ti scompare, se tu c'hai un segnale che disturba ti scompare il segnale, non esiste andare a colpi il discorso come prima con l'analogico. C'è una cosa, se tu disturbi con un 4 watt attaccato a un'altra antenna, vuol dire che lui c'ha il cavo aperto, la calza fa da cosa, da antenna, la calza del cavo, ma se tu metti tutto l'impianto a norma, ti fai un'antenna collegata bene, tu collegata all'apparato omologato non devi disturbare, i problemi sono di quelli che ci sono vicini e se li grattano loro, non tu. La prima volta con l'apparato omologato solo perché non era marcato C, ma non si è sequestrato tutto e mi hanno messo una multa. Adesso c'è l'apparato omologato, adesso si devono cambiare le antenne se vogliono vedere la TV, perché non me ne sbatte in capo. Nicola potrebbe disturbare sul terrazzo, capito? Ecco cosa gli stava avvertendo, potrebbe disturbare. Se disturba le TV gli rendono la vita difficile, perché ti mandano le proposte, ti denunciano come l'ha fatto a me, è un casotto. Ma scusate, posso un attimo? Prego. attimino, scusa Natalia un attimo. Sì. Allora ti dico che potresti sgombrare non solo il tuo palazzo, ma quelli di fronte, di fianco, potresti sgombrare tutti. E ti rendono la vita difficile, te lo garantisco io. Sul tetto vuole l'antenna, è alta almeno un quarto d'onda sopra le antenne TV. Per non disturbare. Quella di Gianni non dovrebbe disturbare perché radiali non ne ha. Posso intervenire un attimino che diciamo le cose come stanno, un attimino, scusa. Tu che hanno le antenne in visita, Robè, li faccio sparire lo schermo, non li faccio pigliare i segnali, perché hanno le antenne in visita. Però sono cavoli loro adesso, perché che io gliel'ho detto, mi chiamate il vitrini che fate aggiustare le antenne, perché se no vi mettono una multa che ve ne recate in basso, se vi intervengono loro. Perché io ho parlato con loro, e ma tu si ne può parlare. Se li disturba ancora con l'apparecchio monogatto vuol dire che sono loro che hanno problemi, e quindi si devono cambiare l'antenna. E parla come si deve per non essere disturbati. Ecco, detto questo, taccio e mi ritiro in buon ordine. Continuo io a fare il discorso. Natali, lui sta già parlando con un'antenna di 50 cm dal tetto, per cui questo problema non c'è. L'apparato è un apparato omologato che tira 4 watt di potenza. Le armoniche, la seconda o terza armonica, deve andare per arrivare anche di più alla quarta, alla quinta armonica, per arrivare a disturbare la frequenza del ricevitore, perché il digitale terrestre trasmette, mi sembra, adesso voglio dire di frequenza, mi sembra intorno ai 600-700 MHz. Il segnale è talmente basso, ma che non attacchi un lineare, glielo metti, che ti crea spurie e armoniche ancora di più. Non c'è problema, lui, te lo garantisco. Lui c'ha l'apparato omologato. Io, tra parentesi, non ho mai avuto nessun problema, mai in vita mia, facendo le conna. Basta utilizzare cavo di qualità, tu, antenna attaccata bene, schermata bene, il palo fissato bene, in modo che non ci siano nessun problema. Certo, se c'hanno un cavo aperto loro, dove arriva la centralina che ci hanno messo un amplificatore per aumentare il segnale, il cavo aperto, la calza ti fa l'antenna, per cui con qualunque apparecchio ti attacchi anche con mezzo vatto disturbi. Lui in questo caso è sopra il tetto, non sta disturbando nessuno, perché se no avrebbero già detto qua, ha un apparato di legge di 4 watt, per cui data lì. I problemi che hai avuto tu e i problemi di loro sono, non sono problemi tu, perché se tu utilizzi un apparato omologato assolutamente non potrai mai entrare, perché stiamo parlando di armoniche che arrivano a 500-600 MHz, sono di microwatt, non milliwatt, microwatt, per cui non esiste il problema. Il ricevitore è digitale, quello che riceve, non è più come prima analogico, nei vecchi televisori parliamo degli anni 80, anni 70, per cui sono molto più selettivi, hanno dei filtri, sarà molto improbabile che lui disturbi. L'antenna mia è attaccata, sarà forse a 2 metri dal palo dell'antenna mia, è più in alto naturalmente, però sono a 2 metri e ho anche qualcosina di sotto di rispetto al normale, e non ho mai avuto nessun problema, te lo garantisco, anche spingendo. Anche io la mia non la disturbo, c'ha l'amplificatore, c'ha tutto l'antenna mia e non la disturbo, perché se no altrimenti come si accappa la portante subito lo schermo se ne va. E tu, io a uno gli ho detto che gliela facevo io l'antenna, non ha accettato, te l'immagini che te sei di cazzo, e poi mi denunciano pure. Adesso attaccano, mamma mia, lasciamo perdere e va. La processione della Madonna, io ogni tanto è sparito il quadro e mancava la voce, dopo lo faceva. Già, lo faceva, me l'ho vista stasera, me l'ho vista, non si sentiva l'audio, spariva il quadro, tutti quei difetti che adesso tu li ha fatto, ma dipendeva da loro, capito? Ma io ho pensato proprio che fosse la mia televisione che stava partendo, invece no, perché poi gli altri programmi li ho visti bene, aspetta, adesso voglio telefonare a Natalino, poi ho detto lo disturbo, magari lo stanno guardando, dipende da me. E stasera me l'ho vista io, mi ha rotto le scatole e me l'ho vista stasera, e si vedeva e si sentiva bene tutto, ho acceso alle 10 e mi faceva quei difetti, anche a me spariva il quadro, insomma, e tutto e di più, infatti ho acceso il baracchino, mi sveglia come poco fa è entrato qualcuno con un segnale molto forte, vorrei vedere chi era avanti e chi voleva entrare, un segnale che era più forte di tutti voi, 9.30, 9.35, non so chi sia, perché a causa volta ho sentito questo segnale così forte, avanti chi è? Scusa, vabbè, forse l'avvertimento che è stato io, ciao, solo un ascolto, ciao. Sì, ciao Giù, no, non è di tu, era un segnale più forte di te, tu sei più o meno come Gianni, un po' di meno, no, era un segnale, non è Claudio, perché Claudio arriva a fondo scala, tra Claudio e Gianni, era un segnale sui 9.35, era. Ha detto, ha fatto una battuta, non ho capito cosa ha detto, e poi ha chiuso. Ok, chi c'è sotto? Adesso facciamo un riepilogo sul canale 10, attenzione, lasciamo un attimino di pausa e facciamo fare un riepilogo di tutti quelli presenti. Allora, Roberto da questa parte, poi gli altri chiamano e facciano girare. Un attimo, riprendi tu Gianni. Ehi, ci sono io, Gianni da più lungo, poi c'è Natalino e poi c'è Lucio Vigio. Ciao Giulio, buon ascolto. Ciao Giulio, buon ascolto. Cosa? Non c'è Eugenio, avete detto c'è anche Eugenio. E Eugenio c'è ancora che non vi... Abbiamo chiamato diverse volte e non ha risposta. Un attimino, sento uno lontanissimo, buh, non so chi sia, avanti, chi vuole entrare su 10, un attimo in bianco lasciate, non si capisce, è mezzo al correme, vabbè lasciamo perdere. Ok, Claudio, ho sentito? No, io non ho sentito, ecco, probabilmente c'è gente a casa. Buh, cosa stavo dicendo, vabbè, avete detto la processione, perché dove è la nota questa processione? La nota a canale 12, c'era la processione della Madonna, perché hanno fatto, hanno chiesto alla Madonna delle grazie, di fare la grazia, di far smettere questo coronavirus. Hanno fatto praticamente la messa, l'hanno trasportata dalla chiesa di San Nicola, là di Cosa, San Nicola. Ecco me la porta, ma c'era gente nella processione per te? No, niente gente, i vigili urbani la portano, la Madonna delle Grazie, a San Pietro, a San Nicola, c'era il vescovo che faceva la messa, capito? Sì, è andata lì, è parlato sopra di Gianni, non ho capito, ma con cosa l'hanno trasportata? Con qualche macchina, sopra una macchina? Sopra una macchina la trasportano, allora, la portano i vigili urbani, c'è l'ascolta dei motociclisti e tutto. La portano lì, a San Nicola, capito? Qui c'era il vescovo che ha celebrato la messa. Anche il rosario stasera ha detto il vescovo. Davanti alla Madonna, proprio inginocchiato. Eccolo. Ma questo tutto da solo ha fatto, senza nessuno? Con i preti. Preti lontani, logicamente, uno dall'altro, per non contagiarsi, c'erano. Però pubblico non ce n'erano. Infatti quello che volevo capire, ho detto, se non c'è un'anima in giro, almeno io da qua non sento neanche un rumore, dove sono io sono un po' nascosto, diciamo, non è che sono una via trafficata, magari durante la settimana è molto trafficata, ma di domenica non ci passa nessuno perché è una zona dove ci sono attività, adesso ci sono anche la Lidl e tutto quanto. Ok, e in città avete visto qualcuno già dalla tua parte? No, io e tu Natalia? Qua già vanno senza mascherina, vanno al tabacchino, questi qui, ma io non lo so. A uno li fanno entrare, fanno bene. Perché hanno paura pure loro di essere contagiati. Perché c'è il tabacchino sotto casa qua e viene molta gente. Io sono uscito presto stamattina a portare il cane con la mascherina. Come ho fatto i suoi bisogni subito a casa, capito? Ma c'è detto la radicale che ci sono quei due supermercati che stanno a fare quello che vogliono, far entrare la gente tutta insieme nel supermercato, malgrado ci sia cosa ordinata neanche del sindaco, oltre che è stata, sta facendo entrare la gente tutta insieme. Ma dove? È un supermercato privato o di queste catene? La gente, Gianni, devono stare a casa, devono stare. Questa domanda non la comprende. Da lì dall'altra volta eravamo un metro uno lontano dagli altri, ci hanno fatto entrare a tutti. Però adesso no, avanti quasi ne va la via. Marco l'altro giorno è andato tardi a fare la spesa. Ed è 61esimo, 70 ne aveva prima. È venuta la una e lui era ancora al supermercato, dice che guarda, meglio la morte, 3 ore di vita mi pare che ha fatto. E va a ordinare cosa faccio io. praticamente Eurospin, Mura e un'altra supermercato, che tu la ordini al numero ufficio e te la portano a casa gratis, senza pagare. Speriamo che lo facciano questo servizio specialmente per te che non ti puoi muovere già. Vabbè, riprendi tu e fai girare un attimo che è venuta la 50 qua, adesso gli giro due schiaffi e ce la mano. Fino adesso ho beccato una frutta e verdura e negozio, e tre negozi di alimentari che ho fatto. Però devo chiamare lunedì perché l'ho contattata su internet e mi ha detto lunedì di chiamare che prendo lui. Sì, tocca, tocca Concetta, tocca. Tocca, buon pomane. Poi te la vedi come, tocca Concetta. Però gridare, ma cazzo mi spacca il fastidio. Non sto gridando già, cambio! Ciao Luca, beh, qui c'è Giulio in parcheggio, avanti Giulio e Nicola, anzi prima andiamo a Nicola che quello c'ha freddo, cioè, avanti Nicola, se ci sei ancora. Sì, ci sono ancora, sappiate che io non me ne vado. Non riuscivano a connettersi uno con l'altro dal punto ripetitore, magari c'era una zona scoperta, come si muovevano, magari c'era scoperta, cioè non era coperta il segnale, dai. Ovviamente si spostavano, seguivano, magari c'era qualcosa che faceva l'ostacolo, perché loro vanno in linea retta i segnali, usano le UHF o le bande alte o i microonde, soprattutto microonde, per cui il segnale se non è diretto pulito non riesci, se non vedi la cosa, il punto di ricezione non vai avanti. Ok, io devo fare prendere a Giulio, se no si addorme. Giulio, vai tu. Luca, una domanda. Giulio, è l'ascolto. Oh, scusate un attimo, sto chiamando il televisore, dai, dimmi Robè. Ma come ti arriva? A te ti dovrebbe arrivare a bomba, Nicola, no? Nicola mi arriva 9:10. E come qua la tia? No, pensavo arrivasse molto più forte, perché tu ce l'hai di fronte. Ma non sei tu nella zona solita tua? A casa della mamma sono. E appunto, cacchio, dovresti arrivare bello pieno da te. A meno che non ci abbia qualche palazzo che lo sa. Nicola ci sei. È sceso giù al terrazzino di casa sua, al secondo piano, e vedere come se riusciamo a tirarlo fuori. Naturalmente Luca, quando mai biliardo tu col portatilino, con l'antenino in gomma, il primo sei stato tu, mi hai dato il battesimo, c'è il nome, che è il primo che mi ha ascoltato. E quanti anni fa? È 2004, esattamente 16 anni fa. Vabbè, 16 ancora non abbiamo fatto, era verso novembre, prima di Natale, dai, qualche mesetto più. Sei stato il primo, entra, ascoltavi tu e forse qualche d'un altro. Poi subito dopo ho messo la mini Grand Play, mi hanno dato una 48 e da lì sono cresciuto un po', dai. Adesso si è cresciuto come fuori. Uno dopo l'altro. Poi Claudio mi ha fatto comprare, anzi mi ha comprato lui un qualcosa, il pace, quel baracchino a pace, stazione base, e di lì ho avuto un grande passo perché mi ascoltavano forte, ci avevo dato, anzi sbaglio, il primo microfono me l'ha dato Luca, l'M93, quello piccolino, il palmarino, che c'ha ancora la batteria, Luca è sempre andando lì sul baracchino, l'ha attaccata alla 48 e poi mi avevo preso il turner, l'avevo preso da internet, l'avevo messo su quel pace e andava più che bene, e poi tutto il resto, quello che è successo dopo. Ma da me sei 9, mi senti a me? Sì, è stato con 9 anche qua, poco meno di 9, tu mi ascolti a me. Scusa che ti sento, stavo mettendo a posto la sveglia, capito? Gianni, vai tu sull'ascolto. Da 4 metri con voce mia 5. Quindi dai, anche da lì riesci a farti sentire, dai, lo vedi. Se ci metti un antennino, figurati, riesci ad andare anche di lì dal terrazzino, senza bisogno di mettere l'antenna su, perché magari, come abbiamo detto prima, ti possono dare dei problemi per il coso, per il cavo in facciata, molti non possono, non te lo permettono. Ma il fluviale lo fa passare, il cavo, molto più. Cosa ha detto Natalì? Dentro il fluviale lo fa passare. E come fa a farlo passare dentro il fluviale? Cazzo? Se c'era vicino a casa sua c'era il fluviale, se c'era nella sua finestra, se no come ti va? Qua bisogna guardare com'è la situazione. Se riesce a farlo passare nel pluviale ha fatto un terno all'otto, poi gli fa un piccolo buchettino, il problema sarà farlo uscire da questo buchettino e poi vuole sigillato bene. Prende Draghi in massa perché non pesa niente come antenna ed è un bisù. Io l'ho montata io a Gianni, mi dice a vedere come funziona quell'antenna. Quella sì è un'antenna. Oh, vabbè, io il capo l'ho fatto scendere dentro il pluviale. Tu all'esterno l'hai fatto passare. E allora, dietro il gruppo l'ho messo. E è legato con le fascette. No, io stavo dicendo all'interno del pluviale. E se da poi da dove lo fai uscire, come fa a farlo uscire? Oh, vabbè, no. Almeno che ci sia un metodo per farlo uscire, non lo so. Vabbè, devi staccarlo il pluviale naturalmente, lo sfidi un pezzettino e poi lo rimetti dentro, sempre che non sia incollato, se no devi fare un'apertura, una ferituia, ma questo se ce l'hai attaccata a casa tua, che non ti vedrà nessuno, non è che ti metti in strada, e se no guai, se ti vedono facendo queste cose, magari ti possono dar fastidio, se ce l'hai attaccata a casa tua, ti fai un'apertura, tipo una finestrella, la tagli col seghetto, piano piano, e poi gliela rimetti sopra, fai il buco per far passare il filo, e poi gliela sigilli bene col silicone. No, se poi devo facere una cosa del genere, ho fatto da mandare, no, non voglio fare queste cose. No, è molto meglio farlo passare dietro, non prende acqua, non prende nulla, è tutto coperto bene, perché rimane nell'angolo, da me farlo bene così. Viene bene anche a mettere le fascette, poi no, io ne ho messo due, attaccate le fascette qui, l'ho strette, capito, perché per venire più bene la più faccia. Sempre con le fascette grosse alle grate della porta finestra, poi ho cuccato la porta finestra, ho fatto passare dentro lei della porta finestra e l'ho sigillato. Ma tu a che piano sei già? Terzo. E quanti ne hai sopra i tuoi piani? C'è due piani più là. E come hai fatto a mettere le fascette nei piani sopra di te? No, lì non le ho messo, non va. Praticamente l'ho messa sul tetto e poi l'ho messa a fianco a me. Però rimane in tira, per lo tirato, l'ha fatto, non ci vedi più. Vabbè, se lo fai bene, se riesci a tirarlo bene, poi magari chiedi a quelli che ci sono sopra di te, se per caso il cavo si muove, dici fammi salire un attimino, lì ti fai mettere una fascetta. Ah, vabbè, già si trovano le soluzioni, se no ti fai wireless, te la fai la connessione dell'antenna, già. Ti fai la connessione wifi, wireless, senza cavo. Sì, arriveremo anche a quello, vabbè. Siamo arrivati a tante cose, figurati, possiamo arrivare anche a quello. Adesso mi è venuto in mente Ruales perché ho visto una scena di quelli Aldo Giovanni e Mario Giacomo che stavano operando al cervello a uno sketch che fanno loro. Ho detto mettimi la flebo, la flebo dopo il tubo, no questa è Ruales senza figli. Sì, vabbè. Non me ne parlare che ne ho avuto tre scene di la flebo. Mamma mia, lasciamo perdere, non tocchiamo argomenti di cose, che io sono terrorizzato di queste cose. Va bene, dai, vediamo un attimino Nicola, anzi io direi chiamiamo a Giulio se c'è ancora, perché poco fa forse l'abbiamo lasciato troppo in stand-by. Avanti Giulio se ci sei. Giulio ha detto che era in ascolto. Ah, pensavo che fosse, ma come non detto. Nicola ci sei ancora? Ehi, ok, dai Nicola, sempre ben sentito, dai. Avanti Gianni che poi farà girare agli altri. Cazzo, ragazzi, ciao Nicola, ci sentiamo. Buona continuazione di serata, ci sentiamo domani. Adesso in questo periodo che c'hai di tempo, cerca di farti uno schemino di dove mettere la roba, così almeno poi quando decidi, se decidi di metterla sul tetto, la mettiamo sul tetto, non c'è problema. Beh, dopo io mi riprenderò, anche io se c'è problema. Ok, Rico, manda me. Buona cena, buona carica, qua mi farai, dai, avanti la carica. Ciao, Nico. prossime, ben sentito, mi ha fatto piacere il questo, alle prossime, là. Natalia, ma che microfono stai utilizzando? Già. Ah? Che detto, Robè? Che microfono stai utilizzando? Quello originale dell'apparato sto usando, questo Polmar, è un Polmar questo apparato. È un microfonino piccolino, piccolino, che manco in mano riesce a tenere, poi come da zappuccia. Non ci sono stato mai abituato a parlare col microfono così. Guarda, io li odio, i microfoni Palmari, mai, guarda, solo quando il primo che ho avuto l'anno 48 col Palmare è una cosa che io non sopporto, proprio non ci riesco, è una cosa che mi dà fastidio. Questo di quanto è piccolo viene male a guardarlo, capito là, e viene buono aria a modulare con questo microfono, però purtroppo non posso mettere, c'è anche l'MP4, l'ho portato in campagna proprio da 9 minuti, no? Io le metto più 4, ma non lo posso attaccare, ma cosa si attacco qui su da voi, magari mi trovano quello e mi rompono le scatole. E anche il ricevitore, avevo un ricevitore portatile io, tolto anche questo, proprio per non avere nulla, tanto vengono a controllarmi, vedrai, perché quelli non potendone più andranno lì. Però io gli ho avvertiti, e qui fa voi, da voi, minimo 600 euro la multa. Anche il tampone ti fanno. No, lo tampone, li tamponano quelli della polizia, se li tamponano bene. Che ma? Ciao Robè. E con quale stai uscendo? Con un K? No, negativo. Allora, baracchinaccio CRT 9009. CRT 9009 K. E c'è un'ondulazione, scusa, un po' spinta, adesso sono a 10 cm, adesso sono lontano tutto il braccio, vedo i picchi di modulazione ed è brutto lo stesso. Scusa, che microfono stai utilizzando? Quello di serie. Guarda, Charlie Romeo Tango 9009. E di quelli moderni SMD, molti canali, molti watt. Ma cos'è, un portante, cioè un veicolare o una stazione base? No, un veicolare. Oh, una bomba, guarda, hai sentito una radio così potente, non so cosa li puoi aver fatto, ma una bomba. Naturalmente, scusate se sono entrato, ero all'ascolto che stavo facendo roba già da 2 ore mi pare. Scalda, c'è il vizio di scaldare questa radio, scalda parecchio anche con usando un pochi watt, è tipo l'Omega Force, c'è questo porco vizio, un vizio, difetto diciamo, è fatta così, dai, già c'ha le alette dietro comunque, di alluminio. Una bomba, guarda, una telefonata la radio, spettacolare, pensavo fosse un K, figurati, c'è una radio potentissima, ma ti sta aiutando di qualcosa? No, no, i watt dell'apparato, guarda, credo che portante muta ne dia tot, non so quanti, però il resto li dà tutti modulati, li dà tutti modulati. E questo è il suo microfono originale? Sì, qui cerca su internet, Charlie Romeo Tango SS 9009. Vai Gianni. Ma solo che mi darà questo? No, quello è il 3009, è il 3009 quello è più vulgaris, per quanto esca benissimo. No, non voglio vedere questo 2009, ma no. Sì, già, ti ho mandato la foto 10 volte. Natalino, guarda l'edizione speciale su WhatsApp tu invece. Non me lo ricordo, ma sono svegliato. Ma qual è quello piccolo? Sì, ha il frontalino più piccolo. È più piccolo come frontalino di un 3009. È tutto più piccolo, diciamo, dai. No, c'è il display, costa 200 euro con l'apparecchio. No, non è male, ho visto, c'è anche aperto dentro, è tutto di nuova generazione, tecnologia nuova, è una bella bestia. No, guarda, posso dire, si caga molti apparati di qualità superiore. Poi naturalmente lo puoi usare sia come canale sia come frequenza, cioè c'è il passo anche di 100 Hz, di ultra leafier per la ricezione, è configurabile, dai, comunque roba da mensa e niente di eccezionale. Non so come sia in ricezione, la trasmissione è una bomba, è una radio spettacolare. Ma dimmi una cosa, tu sei arrivato qua a 9.35, qualcosa, cos'è arrivato l'antenna, hai migliorato l'antenna, cos'è? No, Robè, diciamo che questo dovrebbe avere in AM, non so quanti siano, penso che siano 30 modulati, cioè non c'ho 4 watt, capito me? Sono i watt dell'apparato, nudi e crudi, c'è attacco lineare molto di più. Ecco, stai arrivando quei picchi, arrivi a 9.40, dove abitavi tu, che zona eri, ricordami? Via Nizza. Ah vabbè, sei molto vicino. No, segnale, ti sto dicendo, spettacolare la radio, veramente bella come piace a me, corposa, e ha avuto un miglioramento grandissimo rispetto alle altre volte. No, che uscivi male, però la radio è proprio, ero convinto fosse un apparato HF, ci cioè avessi con un MC60 qualcosa, perché la radio, considerando che siamo un palmarino, stai andando una bomba. Ehi, il microfono è condensatore, sì, microfono condensatore, vediamo se è qua. Sì, è qua. Ma no, c'è anche l'eco con l'apparato. Come, Robè? C'è anche l'eco con l'apparato. Sì, da qualche parte ha l'eco, però lo puoi regolare solo da dentro, cioè devi aprire l'apparato e regolare la ripetizione, cioè il volume dell'eco e anche la velocità di ripetizione. Se trovo la, qua è tutto meno nascosti, vediamo se lo trovo. Gianni, e tu come l'ascolti a Marco? Benissimo, la radio limpida, come ce l'ascoltassi dal vivo. Stai dicendo, veramente bella, come piacciono a me, proprio pulito, non ha né riverberi, niente, una telefonata di quelle pulite e pulite. Complimenti, una bellissima radio, perché non è facile trovare radio così, qua sono tutti un po' pasticciati, troppi acuti, troppi medi, eccetera eccetera. Questa è proprio la radio come la voglio io, poi vari, ognuno ci ha avuto diversi. Ehi, lo uso poco mi Robè, io preferisco il 3009, ma è normale ed è pure omologato quello che uso di solito. Questa non, boh. Naturalmente sto usando un filtro in uscita, un filtro anti-TVI, celle multiple che attenua di 80 decibel le eventuali armoniche spurie. Cazzo, allora è una bella bestia, dove hai trovato il filtro? Dunque lo fa la Midland, ma è un filtro economico, mi costa 25 euro, però non è lo ZG. Il ZG è singolo, questo è moltiplicato per 4 o per 5 volte, non il filtro Pi greco. Guarda, è marcato ZG, scusa, perdonami, Midland oppure RM Italy. Infatti la RM Italy consiglia vivamente di unirlo ai lineari che vendono loro, in modo da ridurre emissioni spurie, armoniche, eccetera. Cappa Gianni, guarda che il messaggio se ti è arrivato da, con la foto. Oh, scusate, non trovo l'eco, perché qua hai tre menu, diciamo, nascosti, hai pochi tasti frontali, Robè, se hai visto. E dunque, vediamo. Sì, no, l'ho visto, è veramente una bella radio, dai, sono di quelle tecnologie nuove, tutto digitali, sicuramente ci avrà anche una bella ricezione, perché utilizzano sistemi evoluti rispetto a quegli apparati di qualche anno fa, tipo la 48. La 48 c'ha di buono che è un trattore, cioè lo sbatti a terra, non succede niente, è un po' scomodo da spostare i canali, quelle cose lì, però è un apparecchio, diciamo, di vecchia generazione, però ci puoi fare un sacco di modifiche perché è tutto aperto. Questo ho visto è tutto rifletto come componentistica. Eia. Prova. Ho trovato l'eco. Io ho cercato di regolarlo a occhiometro la prima volta, però non è roba, non mi sento e non mi sto ascoltando. Volendo ci posso mettere l'autoascolto, tutto c'ha, cioè tutto da menu puoi attivare, però ricordarci com'è il problema, com'è? È un riverbero, credo, comunque non è un eco. Sì, è più un riverbero, non hai ripetizione, comunque è chiaro, anche per essere un eco il riverbero, il cosiddetto riverbero in questo caso è molto chiaro. Stacca è tutto, rimane come di prima, per i miei gusti andavi alla grande. Ma l'hai acquistato nuovo o usato questo apparato? Nuovo. Il venditore che poteva essere FLQ Elettronica forse, non mi ricordo la verità. Bello, funziona bene, dai. Ok, togli l'eco che così esci molto meglio. Segnalone, l'antenna cosa c'hai tu, Marco? normalmente uso il 3009, Superstar 3009, 4 watt che diventano 3 col filtro, mi toglie un watt il filtro. Certo, se c'è 80 dB di coso, di attenuazione, di armoniche, la perdita di inserzione dovrebbe essere almeno, io penso, un paio di dB togliere fuori, buoni buoni. Quello va bene quando attacchi lineare, però già lo sai che vuole messo dopo l'apparato, non dopo il lineare, attenzione. Ah, eccomi. Sì sì, dopo il lineare ovviamente, che però io lineare non ne uso perché non, cioè in città non serve, TX, propagazione poca niente. Adesso è iniziata la primavera, vediamo cosa esce fuori, visto che siamo ai domiciliari, se si riesce a fare qualche QSO. No Marco, scusa un attimo. Come passare il tempo, per carità. Marco, hai fatto un errore. Allora, il filtro si deve attaccare in lineare, vuole messo dopo l'apparato, non alla fine, dopo l'uscita del lineare. Se no, se tu c'hai una seconda armonica di 10 dB, attacchi il lineare e te la porta a 30 dB, per cui devi attenuare la fonte partendo dal coso. Il filtro vuole messo dopo l'apparato, non dopo il lineare. Tu eventualmente ne puoi mettere dopo in uscita al lineare, però ricordati sempre che un amplificatore deve amplificare, se tu c'hai un'armonica, una spuria o qualunque disturbo, te lo amplifica il lineare, per cui se c'hai una potenza di un watt e lo moltiplichi per 10 di dB che di guadagno che può avere il lineare, ti amplifica anche il disturbo, ok? Mettilo sempre dopo l'apparato, non viceversa al lineare. Però bisogna contenere le emissioni del lineare anche. Sai perché alla RM Italy ti fanno addirittura lo schemino, ti fanno vedere lo schema, apparato, lineare, filtro e antenna. Se no bisogna metterne due, che poi quello che fa danno già lo sai qual è, no, è sempre il lineare. Alla fine. Allora te lo spiego tecnicamente, perché se hanno scritto così è sbagliato. Allora tu c'è un amplificatore che c'ha 10 watt, l'amplificatore, l'apparato c'ha 10 watt, c'è un lineare, un amplificatore, in questo caso che ti aumenta di 3 dB, di 4 dB, di quello che sarà 10 dB, non so che tipo di amplificatore. Se tu c'hai un segnale pulito, la fondamentale che ti dà per dire 10 watt e la seconda armonica per dire di mezzo watt e c'è un guadagno di 10 dB, considera che con la seconda armonica ti arriva 10 volte più forte, per cui devi attenuare, cioè devi metterlo subito in uscita all'amplificato, al baracchino, poi eventualmente se vuoi proprio tagliare l'attentatore lo puoi mettere dopo, prima dell'antenna, tra il lineare e l'antenna. Però ricordati sempre che l'amplificatore, il lineare, amplifica anche i disturbi oltre che amplificarti il coso, e poi tra parentesi li genera, le armoniche le genera anche lui, soprattutto i transistorizzati è ancora peggio, perché sono dei generatori di armoniche, per cui se tu non lo metti prima e il segnale non è perfettamente pulito, che è impossibile che sia perfettamente pulito anche se l'apparato omologato, qualche armonica per logica tecnica ce la devi avere per forza, magari sarà massissima, però mettilo sempre prima, ricorda. Ecco, si è registrato, avanti. Vai Massimiliano. Ciao Marco e ciao Roberto, buonasera, non so se c'è qualcun altro perché non ho fatto ascolto. C'era Gianni, ci sei ancora Gianni? Ciao, ciao, anche a te, buonasera, dai, ok, riprendi già. Ciao Massimiliano, mi hai sentito, dai. Sto guardando con l'apparato, lo sai che non mi piacciono esteticamente. Ma infatti molto meglio cromati già, a me piacciono cromati gli apparati, tipo il Cobra, il 3009, questo è tutto nero, sembra uno scarafone. Vai Roberto. Ma poi cambia anche colore, mi pare, ho visto le fotografie, lo puoi fare azzurro, verde, rosso, così e basta. Il display sì, guarda, celeste non è male, è il più tollerabile, verde, rosso, poi violetto, quel purple, prende troppo agli occhi, blu è troppo scuro, celeste oppure adesso è bianco, trasparente praticamente, bianco, sembra appena appena celestina ma è bianco, in luce naturale vedi che è bianco. E tutte minchiate, poi a me dei colori, a me l'importante è che esca bene, poi che abbia colori, ecco, no? Non ne uso mai, ecco, no? Vai Massimiliano. Che apparato è questo Marco? CRT 9009, sarebbe CRT SS, sta per Superstar 9009. Chi è che sta battendo? Comunque è una bella voce. sarà ancora un è una bomba, Massimiliano, sto dicendo poche ne ho sentito così belle modulazioni. Sì, è proprio veramente bella. La preferisco anche al 3009 come modulazione. Addirittura. Non lo uso mai questo. Lo uso poco perché c'è sempre la remota possibilità di entrare da qualche parte, no? Non lo so. C'hai un bel picco di modulazione e la radio ti dico che è veramente bella. Davanti Roberto. Sì, no, ma le ho fatto i complimenti anche io, ti posso dire, non perché c'è lui presente, ne ho sentito pochissimo. A livello suo solo qualche valvolare di un certo livello. Pronto. Adesso proprio devo lasciare i ragazzi che mi hanno chiamato. Dai, ci sentiamo dopo, se ci siete ancora, se no vi do la buonanotte e buon proseguo. Ciao Massimiliano, ciao Marco, ciao Gianni, Natalino e tutti gli eventuali amici, Giulio, sei in ascolto. Ciao ciao. Ciao Roberto, ci sentiamo, dai, buona carica, buona serata e buona continuazione, avanti già. Sì, allora, ciao Roberto, buona carica, grazie per il coscio, fammi così via, dai. Speriamo di sentirci più tardi, dai. Buona serata, avanti, Natalino. Mi approfitto, dai, che devo andare a cena, ci sentiamo alle prossime, dai, salutoni a tutti, come resti per me. Ti è piaciuto il video? Ciao Natalino. Mi dà parecchio a vedere com'è che non me lo ricordo. Niente. Ciao Robè, dai, sentiamo. Buona serata a buon tutto. Ciao Natalia, scusa, non sapevo che c'era anche tu, eh. Ciao, buonasera. Yeah. Ascolta Marco, questo è il Reme Italy, come vanno? Queste? Queste lineareti, questi Reme Italy. Come ZG. Diciamo il MOSFET è pulito, io ti posso parlare, guarda, è uguale all'ultimo 747, quello che veniva chiamato, Gianni aiutami, l'ultimo 747 in palio si chiama Booster 747, quattro finali marcati lonfi tipo MS1307, allora ingresso fino a 10 watt in AM, però fino a 5-6 esce pulito, già con 7 comincia a saturare. E comunque ricordati che con 5 watt già ti dà il 90% della potenza, quindi è utile dare più watt e uscire saturi, meglio pilotarlo in basso e uscire puliti. Anziché 100 watt te ne dà 80, magari 90, ma esci pulito. Veramente in casa secondo me, io ho provato a disturbare a me alla TV, non c'era modo di disturbare, io ho provato in tutti i modi a disturbare la mia antenna TV, niente, collineare, togliendo il filtro, nulla, da me non disturba, non venuta la va, anche con l'amplificatore ho provato a mettere l'amplificatore TV, niente, nemmeno un quadratino, nulla. Vedi, magari è bello schermato, ho capito. Diciamo l'impianto TV fatto bene, non come i vicini di Natalino che hanno degli stenditori come apparati, come antenne TV. Oh, sono rientrato. Io ce l'ho uno di quelli, un po' più grandetto di quello che c'è tu Marco. Però ancora non l'ho usato, l'ho usato qualche volta e un fulmine me l'ha bruciato. Peccato. Gianni, l'hai vista l'antennino? L'antennino? Ehi, Marco, ehi, bella. Ehi, mi Luca arrivava di un bene, ma di un bene. Cioè il segnale non era fortissimo, ma era di una pulizia. Mi Luca, digli la prova quando t'ho registrato. Sì, è vero, è vero. È piccola l'antennina, ma viaggia. Sì. Rimessa sul tetto anche già va bene. E poi naturalmente è una volgare antennina, cioè dentro non so cosa ci sia, se rame, se ottone, e comunque funziona, per adesso funziona. Ah, provano l'acidi. Siccome, aspetta che c'ho il volume basso io per non disturbare mamma, dimmi Massimiliano. No, tu hai detto che non te ne è volgare, pure provano l'acidi c'è. Secondo me arrivi di brutta, aspetta. Ma non sarà Conte invecchiato per caso? No, guardalo, è troppo bellino. No, ma e poi per tirare sul cane cosa fa? Lo tira su a in picco. Non mi mi dire che lo sta tirando. No, questi sono malati. Che c'è fuori di gabbo. Ma così lo impiccano in casa. Oh, io ho visto, avevo visto gente che per la paura si portava su la spesa, si faceva lasciare la spesa giù, se la faceva mettere in un cestinetto con una cordicella e se la tirava su, ma il cane, poveraccio. Ma infatti io dico, cioè, la spesa va a Napoli, ma è un cane, roba da chiamare la protezione animali, mi. Oh, Massimiliano, è quello di Conte, l'hai visto? No, no, non l'ho visto. No, ma perché me ne stanno mandando? Guarda, c'ho il telefono tutto pieno di questa roba. No, io. Ma come faccio 160 giga di memoria? È saltello che te lo mando. Però ogni tanto, forse un bel po' di pulizia, altro che. Guarda, metto un video. Sì, avanti. Andato. Avanti, ti mando lui, come ti può andare via? Aspetta. Sto guardando quello lì, lo... A me dai visto, Massimiliano. Ma devo volare a Marco. Marco, guarda il video che ti ho mandato. Eia, visto la Massimiliano? Eh? 2050. Cosa dobbiamo fare? 30 anni di clausura? Ancora, ce la faremo. Ti vengani. Visto la Massimiliano? No, lui non mi ha mandato nulla. Stai arrivando. Aspetta. Luca, qua ancora nulla, Gianni, ma tu, Gianni, doppio run, l'avevi visto l'apparato? Te lo ricordi qual è? Quello piccolo nero. Ehi, sembra un po' forte. Sì, Lucia, l'avevo già, eh. È forte anche questo. Sì, sì. Sì, sì. Sarà più che pippa, cos'è ti volevo dire? Quindi a te ti piacciono gli apparati cromati, così è? E infatti ho avuto sempre un debole per i 3009, mi è arrivato il video. Un attimino che lo guardo. Ma di tu, Marco, quando arrivi Lorenzo? Ma questo è più bello, secondo. Adesso mi devo portare il... come si chiama? Il test giù. Così mi misuro anche l'altro, l'alimentatore, 16,8, ma penso di sì, eh. Perché c'è un po' le frecce sballate. Non c'è di sballato, no? Le frecce un po' sballate, quella del voltometro rimane un po' più giù dello zero. E vabbè, quelle comunque c'hanno, adesso non so se si regola da fuori o da dentro, hanno qualche trimerino. Sì, il trimerino, ma non l'ho toccato, non fa nulla. Ma l'hai misurato già con te? No, ce l'ho qua, cazzo, non c'è un treno, gli danno un culo, fate se me ne porto uno di là. E quello che sto usando adesso l'hai misurato? Ma sto qua, adesso no, ma sa che lo misuro. Chiama, chiama. Io, Marco, come radio cromato mi è rimasto il Cobra GTL 200. Aspetta che me lo guardo. L'ho visto il video. Ah, io, ma chi è che fa guardare cinese il bambino, no? Cioè, chi è che fa guardare? Intanto, era già... Hai capito, questi cinesi li abbiamo sottovalutati, mi. È tipo il sardo da quello lì. 13,5, Massimilia. Quanto? 13,5. È già buono, lo può aumentare un pelino, è anche a 13,8. Adesso porto a 13,8, perché ogni tanto, come si dice, tocco la manopola, vai spostando, vai, lo tocchi, o lo abbassi, lo sollevi del tutto. Allora, la manopola l'ho levata, così se dà il colpo già non si muove. E cos'è questa cosa? Bella! Quella è lunga 23 centimetri, V e U fa, però i radiali li puoi mettere orizzonanti V, orizzonanti U, ovviamente U. E arrivi bene da tutte le parti? Guarda, io ho fatto poche prove, però ti dico solo che Luca arrivava molto meglio da Santa Maria di Pisa. Sentivo Graziano, che con l'altra non sento. E sentivo, mi pare, come si chiama? Giuseppe che sta entrando là. Sì, Giuseppe. Però conta una cosa, che questa antenna è dalla parte opposta rispetto al ripetitore cellulare, perché la primaria è proprio a vista col ripetitore cellulare, sono 30 metri e credo che mi faccia anche battimento. Non credo, è proprio verificato, mi fa battimento. Invece quella è l'autostrada, quella nuova, capito? Ti mando una foto di quella che uso io, ma io la uso all'interno dentro casa, attenzione, ma qui sento tutti, ma quella andrebbe bene da semi, discretissima, piccola, sul tetto però. Gianni? Sì, Gianni. Quell'antennino lì andrebbe bene dove sei tu, Mip, per là, purché è sul tetto, perché tanto è microscopica. Marco, guarda questa. Allora, ma praticamente è una veicolare adattata con l'adattatore, così è? Sì, 32 centimetri. Questa è la volendo, c'è anche la base magnetica. Allora, da qui non c'ho bisogno di sforzarmi, sento tutti quasi fondo scala, dentro casa. Eia, buono, buono. Addirittura sai che ho visto gente facendo prove col PMR tra virgolette, non col BAO, e gli hanno messo antenne veicolari con l'adattatore, anche antenne da 1,5 metri mi. Con l'adattatore modulavano così da zone aperte. Eia. Ma guarda, io adesso devo fare una piccola prova. Ieri ne ho buttato giù alla Daimo col discone. Ce l'avevo un anno, si è tutto ossidato, bisogna fare di tutti i radiali, mi è rimasto lo filo centrale. E voglio fare una cosa del genere a vedere se va bene. Eia. Dai, riprendete che devo andare in bagno, dai. Vai Luca. Eia. Insomma, sono 13,8, 13,9, saltava da 13,8 a 13,9. E io sono quello lì, da pazienza. Quello là mi fa rientro. Cioè mi fa rientro, mi fa QRM. Aspetta tu che ti cambio radio, voglio vedere quanto arrivi qua. Via. Attenzione, io mi rovio rumo, se senti questa piccola musulata che ti chiamo, gap. Chiamando, cosa stai facendo? Tossone? Black! Avanti, gambe! Non sto giocando! Esce bene! Avanti, chi è imbreccato? Salutoni circolari a tutti! Via Daniele! Ebbe la Liluccio! Ebbe la ditta! E allora è battito in Dio ogni tanto! Ma non può assimiliare con questo! Con questo apparato, ora un po' col tuo! Non ho capito lo cosa hai detto. Senta cambiare apparato per controllarmi il segnale. Guarda un po' gatto. Allora qui sei a picchi di 9. Lì sei 9,95. Guarda, a me sei 8 a picchi di 9. Con questo? Sì, fai fischia. E dai, c'ho quasi 9 arrivi. Sì, allora è bello lo stesso, va bene, a voglia, quindi mi sembra i buchi. Vabbè, quella lì, questa è quella grigia, va. Ma viene pari in bocchi, Massimiliano, il segnale 9, la radio che interessa, il segnale alla fine conta poco. La radio è un bisù. Gappa, come va Daniele? Ecchi me! Fando? Cosa, Lu? Ho detto che stai fando, Gap. Nulla, ho acceso qua 5 minuti a vedere che c'era, così. Allora, ce n'è uno, dai. Ancora fame, sì, un po' di fame ce l'ho, ma mangio dopo. Qualcosina. Niente. Oggi non ho servito, Daniele. Non è in servizio? No, domani, nuovo giro, non va a corsa. Ma sei autista tu, da sì? Sono correttore. Autistico sono. Autistico, cavia, da te. Anche io facendo così un po', dai. Positivo Caparroglia, dai, la cosa è bella, dai, ti ascolto molti chiari. Non so se hai mai sentito il tipo... Allora, un tipo robusto che fa il video su Facebook. Cazzo che ci fuori chi su? Facebook, chi è? Non lo so, c'è un rematore anche. Un tipo robusto, Massimo. Un tipo robusto di... tipo... robusto, un grosso, senza capelli. Mette il video, Continente però, Lo so, però se non mi dice il nome, non... Ce ne sono un bel mettere il video, dai. Avanti, Danielu, tutto roger, dai, tutto a posto, cambio. Cava Rogero, guarda un po' com'è qua. Tutto di lusso. Cava, e sono liscio come l'olio. Va bella, va bene. Santiago 9, Radio 5 è perfetto. La cosa è bella, dai, non ci stanno problemi, frate. Ti ascolto forte e chiaro qua, che è... Il camionista. Chiama. Ma il radio non si mi dia, io mi sto ascoltando il radio. gira bene, dai, gira, con effetto è un po' così. Ma mica bisogna scaldare quello. Oh, eppure quando, non lo so, so io. Comunque già va bene, dai. Voglio capire chi è questa tipa che la sto disturbando. Fa un passaggio che ti faccio una registrazione. Via, attenzione Massimiliano Bulldozer, se tu ascolti Luca, coordinate Monte Rosello che ti chiamo, gatto, gatto. Cava Roggio, Luca Riei, sei quasi 9.25, Daniele, qua da me sei 9 più 5 modulato, ma non smetta che hai messo in ballato, dai. Lo dovrei procurare uno, Massimiliano, lo potrei acquistare, però questo qua è un po' così, Non lo smetta nel iPhone. In rete, su internet deve guardare, quelli sono lì. Qua, Luca Riei, qua sono due, tre watt sono, dai, di più non posso scendere. 9.5 modulato. Perché se lo porto a 3 watt e poi attacco, fa rientro l'alimentatore. Aspetta che mi guardo il video siciliano. Però lo smitter blu è bello, Gava gava, trasmissione è rosso. Vai Gianni, lo più rubo. Ehi, non mi stavo seguendo, scusate. Facciamo qualche passaggio così giusto per, capito? È entrato Daniele e niente, no, Daniele ambulanza. Ciao Daniele, ciao Danielito, tutto ok? Buonasera Gianni, tutto K. Ma sì, già, no, già non è male, là. Non è che già non è mal fatto, là, vabbè, si potrebbe fare di meglio. L'unico è provare il microfono della CTE o quelli che vendete, il tuo qual è Daniele CTE? Io qua sto usando il Midland, il cappello nero. Mi aspetto quando la foto si vede al microfono. Cavalone, cavagava. E quindi Daniele, com'è la situazione? Incasinati siete? Tribula Massimiliano. Tribula. Oggi a riposo, ma sono stato 2 giorni appreso a questa gente. Ma alla fine i contagi, sì, già l'ho visto. E lì buscati magari una diversa capsula, prova a buttargliela dentro, magari cambia. E come la situazione alla fine, sono contagiati, roba così, sono più che altro, sono infermieri e medici, così è. Un mix, Massimiliano. Un po' e un po'. Ma te voi come fate? Sempre a presso di figoli? Massimiliano, se vuoi fare un passaggio ti faccio una registrazione pure io. Attenzione Lucariello, senti Radio Bulldozer qua, isola nord della Sardegna, ti chiama, cambio. Quindi diciamo un mix mi stavi dicendo, ma è mica cosa, da cosa può dipendere, non si sa nulla ancora, no? Cosa Massimiliano, che stiamo parlando qua con mio figlio, dimmi. Ho detto che stai facendo anche turni massacranti sicuramente. Guarda, l'altro giorno ci sono uscito a Locceri e a Orani a consegnarne 3. Cresciuta. 3 effetti. E allora, avanti ieri sono uscito a Castel Sardo Tempio a consegnarne 2. Picchia, no. Vabbè, ma voi siete già 7 belli coperti, sì. Cava Rogero, tu pensa che il primo viaggio me l'ho fatto da solo. Tanto erano tutti camminanti, il secondo con il collega. Ah, perché ti mandano da solo a viaggiare anche. E allora Lu, ma se rischio che corriamo. Me lo posso immaginare, che casino, ma tutti questi continentali che sono scesi qua, che hanno una seconda casa, poi questi medici che hanno viaggiato non so dove, ma è arrivato un casino, tutto dall'ospedale comunque è partito. Tutto da questi che sono venuti, che sono scappati, capito? La maggior parte, l'80% è dipeso da lì. Poi c'è gente positiva che che è asintomatica e gente che ha i sintomi veri e propri, capito? Non so, ci sono gli asintomatici, è vero, è vero. Ma magari noi ce l'abbiamo, vedi, senza sintomi. Guarda, se mi fanno il tampone, io lo sciolgo, questo è poco ma sicuro. Dici che sei anche tu asintomatico? Cioè, asintomatico? Per me sì, Lu, io non c'ho sintomi, ma fuori di stare lì dentro, già te la prendi, vai tranquillo. Ma tu sei stato anche per tuo figlio, come fai? La tua compagna, è un casino, vedi, Daniel. Tuo padre, tua madre. No, vabbè, papà già è tranquillo su, non sto più salendo. Ma Lorena è insieme a me alle volte, quindi Burueda qua. Su 4 o 2 saremo asintomatici. Vabbè, cosa fai? Massimiliano, mamma mia. Ma noi, lui, ci hanno già... ci hanno fermato, là. Da domani io non vado più a lavorare. Ma io penso che anche se ti fermi 15 giorni così... anche che io lavoro da solo dentro lo scavatore, roba del genere, però secondo me 15 giorni non risolvi la vita, bro. Cioè non risolvi niente 15 giorni, però uno ci prova, no? Ma è ufficiale, Massimiliano, quel decreto che hanno fatto ieri, quindi è già partito da domani? Ufficialissimo, ufficialissimo, capito? Eppure quello ti voglio dire che io lavoro da solo dentro l'escavatore, quindi chi mi è che mi può contagiare? Nessuno. Però intanto hanno chiuso l'azienda, capito? Ho voluto chiudere perché non si può lavorare, cioè uno teme, la verità, anche io sto temendo a portarmela a casa più che altro. Cava, beh, giusto che sia così, cioè, se ti fai un giro di conti, chi lo sa, magari anche tra colleghi e cose, magari c'è qualcuno che è stato a contatto inavvertitamente, anche se stai lontano, uno di questi, anche facendo la spesa e poi te lo porta in cantiere e tu non lo sai. È questo, quindi viene febbre e poi cosa dà? Da qualche problema ai polmoni, mi sembra, capito? Una polmonite ti viene, Massimiliano, quando è in casi gravi, quando c'hai i sintomi, tosse, da lì va via aereo sino a scendere i polmoni, e da lì sta. Da lì ti intubano, così è. Dipende dai casi, se sono casi gravi sì, se no ti passi la polmonite, c'è cioè crisi respiratoria, ti mettono l'ossigeno e tutte le cose. Vabbè, dai ragazzi, non so se ci siete più tardi, ma io mi hanno chiamato giù a mettere qualcosa nella sotterranea. Ci aggiorniamo dopo al limite se ci siete, ok? Ciao Roger, Massimiliano, dai, buona carica e buon tutto. Salutone a QRA familiare, dai. Riprendi lui. Io Massimiliano, sarà difficile che ci siamo, se c'è Gianni magari ci facciamo due chiacchiere. Io già lo lascio acceso poi, se non mi si goccupo, se non mi addormento. Dai, buona carica e buon tutto. A più tardi o domani, dai, ciao Massimiliano. Ciao. E intanto no, che 7:30 rotto tutta la mattina, sarà, non accendono più. Adesso già siamo in galera, quindi ci portano un po' di più il radio, no? Andate, ciao. Infatti, no. Via. Vabbè, così è, Daniele, è un casino. Il lavoro che fai tu è tosta, eh. È tosta. Si conferma, Daniele. Poi devi fare tutti i checkpoint di misurazione di temperatura. Ed è un casino, i termometri sono tutti sballati. L'altro giorno c'eravamo 38,8 di febbre, secondo loro. Sono stato 5 minuti all'aperto e è tornata alla normalità. Aspetta, io sono al telefono. Ehi, allora lì è. Mi lasciate. Osa già. No, Luca c'ha una bassa. Dobbiamo farli già, anche lì stiamo andando a... siamo accorto di tutto. Ma hai visto che a Casasera dice che c'è la quarantena? Già ho visto l'articolo del casino di ieri notte, ma hanno già provveduto a sistemare la situazione. E ora? Quello già da immaginarselo già, lì c'è un passo alla fossa, si può dire, non tutti ma la maggior parte. E quella sembra la precamera della morte, ma la Casa Serena già è bello perché canta, fa lo spettacolo. solare. Sì, è attiva come struttura, ma da i reggenti che ci sono lì, molti sono caput. Oi, casino, specialmente questi istituti, io mia figlia che praticamente è a Bologna, che sta lavorando in una comunità, perché lui fa l'educatrice, laureata in scienze dell'educazione, e praticamente dice che non gli hanno fornito manco mascherine, e lei è in contatto con un vigente. Quello è già, chi lo sapeva che andremo a finire così? Chi lo sapeva? Guarda adesso se trova la mascherina in giro, là. Vanno come loro. Io ne ho una, me l'hanno anche buscata, non sono riuscito a trovare in farmacia, me l'hanno buscata, la verità. Ne ho una sopra. Noi lo stesso, anche per lavoro. Ci abbiamo te, non calano, di più. Ma il fatto che le mascherine sono usa e getta, non si possono tenere, se no fanno più effetti. Noi dobbiamo metterle all'occorrenza e toglierle, e fare sempre così. Lo so, purtroppo quando ne hai una sola devi fare così, sei obbligata. Capito? Ne ho una e la usa anche il mio figlio per portare giù il cane, Gava. Poi c'è quella col filtro, poi devi mettere sotto al filtro, quella chirurgica, perché non va bene con le parti, quella col filtro. E devi stare, togli, metti e togli, buon casino. No, quella col filtro non va bene, che passa l'aria. Sta facendo anche il figlio, prima ho detto al televisore che le dava, che le ho mangiato per primi a Colova, all'ambulanza, in più all'Apis che pare di Colova, in più alle forze dell'ordine di Colova, e che poi gli altri magari la verità che ne aveva bisogno, adesso ha messo i prezzi, che le vende da 20, da 50, le sta prendendo. Sì, no, dall'inizio ha messo l'articolo su faccia di libro, c'aveva i prezzi, però loro sono in Bonorva, loro sono lì sulla 131, lo svincolo di Bonorva, sulla RES. Sì, ma se quelli lì non sono manco omologati come mascherine, sono fatte, loro fanno materassi. No, hanno avuto il via libera dal Ministero della Salute. Non si è messo abusivamente a farlo, capito? Ha avuto l'ok e le sta facendo. Ah, mi pare che siano attrezzati. Cava Rogero. E non è neanche l'unico, c'è un'altra azienda in Sardegna che si è messa a farle adesso. No, non so dove, c'era nel sud o centro Sardegna, boh. C'è anche a Portotove se hanno donato camici e cose varie. E si conferma, quelle tutte bianche sono, quelle anticontaminazione. Quelle che si usano per tagliare l'erba? No, queste sono più grosse già, sono più grosse. Quelle per tagliare l'erba sono quelle sottili di carta, dai, che bastano lo starnuto e sono già rotte. Queste sono più grosse e più impermeabili. Se no che non si perde una mossa, la gente che sta uscendo è facendo un casino, facciamo la fine di tutti. Purtroppo è così. Oh, già io ti devo lasciare che qua mi hanno già chiamato che la pappa è pronta, dai. Ci ascoltiamo dopo, se coincide, salutami a Luca appena rientra. Salutami la signora, ciao. Cavarro, Giorgia, dai, contraccambia tutto. Ciao, già è acceso comunque, se mi sento dopo entro. Ehi, avanti. Vabbè, Daniel, ci sei ancora. Daniel.